io no. E io bippi. Avanti bippi. Vai Giulio. Ciao. Che bello. Mi adesso mi ha attaccato a caricare batteria del tablet e del telefonino, perché sono scarichi tutti e due, stanno caricando. Preparazione, c'è, adesso ho acceso, in questo momento stesso, qua in questa zona, così intanto il tablet ci impiega alcune ore a caricare, non è come il telefonino già perfetto, ma il tablet ci impiega qualche ora, perché è più grande naturalmente. Guarda il telefono. Cosa non ho capito, lo sei troppo basso. Guardati il telefono. Il telefono, mi hai detto? Sì. Lo stacco un attimo, perché sta caricando, capito? Ah, ci avevo funziona bene quell'apparecchietto? Hai visto? Hai visto? Hai visto? Andate. Funziona bene quell'apparecchietto, eh? Ho detto, hai visto che ho messo il piccolino, piccolino. Hai l'eco, l'eco che ripete, non si capisce quasi. Quello, poi stai arrivando basso del radio. Qua mi sta uscendo bene però. E adesso vuol dire che è lontano dal microfono. Se la sensazione, la voce era molto bassa. Ho detto, hai visto il display che ho messo? Sì, stavo guardando quella cosa, sì. È bello, funziona bene, anche chiaro chiaro. Sì, quello praticamente mi indica quale il display l'ho messo, perché mi indica quali filtri sto utilizzando. Capito? Filtro 1, 2, 3, eccetera, eccetera. Ho capito. No, funziona bene, funziona. Ma quello che avevi fatto tu è o te l'avevi fatto arrivare? No, il display l'ho comprato su, li vendono su Amazon, questi display qua. Ah, li vendono da su Amazon, ho capito. Insomma, sei un bel cliente affezionato di Amazon tu. No, vabbè, sono display che utilizzi per mille cose, capito? Per mille cose li utilizzi questi display. Puoi fare, secondo lavoro colleghi, ti fa delle scritte, dei disegni, delle animazioni, dipende da cosa ci devi fare, capito? Ho capito. Ma io sto ascoltando la modulazione, ma è bella, chiarissima. È di lusso veramente. Quando ci si arrisca i filtri, sì. Ma per chiarire la modulazione deve essere in filtri per forza? No, aspetta, faccio un video senza filtri. Aspetta, i filtri tolgono tutto, aspetta, vai. Aspetta che metto a registrare. Vai giù. Ok. Sì, no, ma sto guardando il coso, quella. Allora, questa parte qua, ancora c'è chi non riesco a leggerlo bene. Non l'ho ingrandito, vediamo se ingrandisco come esce, ingrandendo l'immagine. Ecco, si è ingrandito adesso. Ah, ecco, fill, off, fill. Cosa vuol dire? Boh, non ho capito. Cosa vuol dire quella? Vabbè, off lo sappiamo, vuol dire spento. Poi l'altro è MR, cos'è stato? Boh, non si vede bene l'immagine, lo so io che non lo vedo bene, perché è piccolo. Sto guardando il telefonino, ma è piccola l'immagine, capito? Non ho capito giù. Ho detto che stavo leggendo quello che c'era scritto NR S O Q, non lo vedo come, e poi l'altro fill. Cosa vuol dire tutte quelle scritte lì? Allora, filtri, off, vedi, allora, se guardi a sinistra, se è acceso ti indica il numero del filtro che è acceso, vedi? Noise reduction, ok? Poi, ok, ti dice quel numero di filtro stai usando. Poi c'è il secondo, lo squelch, perché questo c'ha anche lo squelch automatico. Tengo premuto il tastino e si inserisce lo squelch e si apre solo in caso di che ci sia una modulazione. Poi l'altro è il, aspetta, che l'altro filtro che hai visto che ha due interruttori, sono due tipologie di filtro e basta, non c'è altro, è pure l'indicatore del livello audio che sta ricevendo. Ho capito. Sì, che praticamente questa macchinetta che ti fa vedere lo spettro della modulazione lo vendono su internet, ma costa molto. Il display costa intorno ai 10 euro. E l'altro tra il ferrafe è una ottantina di euro. Ma caspita, non puoi, capito? Aspetta, ti faccio un video. È bello, sì. È bello, una cosa per appassionati, quello indubbiamente. Però è bello. E vabbè, uno si diventa per queste cose. È bello, io certe applicazioni elettroniche le facevo quando ero giovane, e vado a un blocco di cose. Adesso se mi metto a muovere non ci riesco più, anche perché non ho più quei giornali, io li copiavo da ciclo elettronica, pratica elettronica pratica, sperimentale, da quelle riviste lì, copiavo un sacco di cose, copiavo, e avevo fatto un me, avevo fatto addirittura anche una radio a coso, come si dice, a reazione. Era un disastro, quello era un disastro, era, cioè, quando lo accendivi era un disastro, per carità. Vai giù. Ok. Stavo dicendo, quando io ero giovane, a parte il fatto che allora ci vedevo molto, ma molto bene, anche le cose più piccole e più invisibili che esistevano, per fare quei collegamenti, eccetera. E dunque mi direttavo, è passato tante di quelle ore e di giornate, sia festivi che anche la sera, anche la notte, e ho giocato un poco di cose. E facevo tante applicazioni, ho fatto tante ricevitori, tante, poi smontavo e magari utilizzavo gli stessi componenti o parte di quei componenti, li usavo per fare un altro coso. Alle volte compravo anche i kit già da assemblare lì da Melchioni, allora li vendevano, le ho fatto di tutte le maniere, le ho fatte. Avevo fatto una volta una radio a reazione, Luca, ma era tremendo, quando la sentì non ce n'era per nessuno in tutta la zona, boh, tu dancato, era una vergogna, era reazione, perché oltre a essere ricevente è anche trasmittente, era una radio a reazione, che oggi era onde media sempre, no? Che oggi non va più, intanto onde media non ce ne sono più in frequenza, non trasmettono più, perlomeno qua. Un sacco di riviste, c'ho un sacco di riviste io. Manca regalo, mi vogliono. Io compravo tutto dalle riviste, ma io li compravo, ne compravo anche tre in una settimana di quelle riviste. Ciclo elettronica, elettronica pratica, sperimentale, euro, aspetta come si chiama, euro, boh, non mi ricordo. Insomma, in poche parole, alla fine, ragazzi, non avevo più posto dove mettere, allora mi stavo in un'altra casa, avevo un gabuzzino di 2 metri per 1,50 m. Era tutto pieno di riviste, una di mi sono arrabbiato, giubilato, ho fatto una discarica, nel senso che ho svuotato il gabuzzino e ce l'ho buttato dentro un cassone della Mondezza, allora c'erano i cassoni, qua c'erano ancora, no, quelli per la strada prima della differenziata, e ho riempito il cassone di riviste, era un peccato perché erano un sacco di soldi, addirittura riviste dal 1954, 55, 56, ma proprio da quando ero ragazzino compravo queste riviste, anzi pigliavo i giornalini di Sciuscia o Tomic, pigliavo le cose di elettronica per dire, no? Sì, eppure quelli li cercano, mi è fatto male perché piuttosto li regalavi a chi li cerca. Perché non avevo più spazio lui, allora abitavo l'altra casa era piccolina, qui già ce n'è abbastanza di spazio, qui posso mettere quello che mi piace. Per dire, no, però sono stato costretto a fare un po' lo sgabuzzino perché non sapevo più dove mettere le cose, non sapevo più dove mettere tutto quello che effettivamente serviva a casa, soprattutto troppo ne avevo, anche perché avevo anche molte radio antiche, che ce le ho ancora, mi sembra ne ho 5 o 6 radio antiche, e adesso sono tutti così, adesso bisogna che le riprenda per cercare di far funzionare un po' tutte le quelle a valvole con giradischi sopra. Poi c'era una radio Marelli, sì, ce l'ho sempre, quella avevo fatto addirittura una trasformazione, perché c'era una valvola che, se ricordo bene, la sigla era 50 LSI, una cosa del genere, quella era la sigla della valvola, praticamente era un bottiglione, era una bottiglia, e poi era grande questa valvola. E questa valvola io non ce l'avevo più, ormai non si trovavano più le valvole, o perlomeno forse in continente c'erano, ma mi sa tanto buttavano, anzi sicuramente costavano molto, e io non ho voluto spendere i soldi per comprare la valvola, ho fatto la trasformazione e ho utilizzato due diodi, e nel porta valvole ci ho infilato questi due diodi, ho fatto una modifica all'autotrasformatore, e funziona così perché era una valvola radiostatrice, era questa, capito? Sì, passione, poi passa col tempo. Ce l'ho sempre, con la radio ce l'ho sempre, solo che ce l'avevo poi in falegnameria, ce l'avevo già in mezzo alla mondezza, tutto, si era rovinato anche il mobile, in mezzo alla mondezza, nel senso in mezzo alla polvere, tutto, non sapevo dove metterle, però ce l'ho sempre, ma sono funzionanti, basta una piccola rinfrescata, ad esempio ai contatti, con un po' di disossidante, eccetera, e funziona tranquillamente. E c'è anche i giradischi c'è sopra, ma ne ho 5 o 6 di quelle radio, se ricordo bene, anzi ne ho anche uno a Sassari, uno con la modulazione frequenza, solamente ormai è un buon di media, non funzionano di più, non ve ne so più. Poi siccome arrivavano a 104, arrivavano di frequenza, la modulazione frequenza, oggi arriva a 108, oggi già da un bel po' di anni. E allora cosa succedeva? Siccome non riuscivo a prendere Radio Holiday, mi sembra che era una cosa del genere, adesso non mi ricordo la radio di allora che c'era di Sassari, no? E io dal compensatore l'avevo spostato, magari perdevo la prima radio che era intorno ai 88, però ricevevo quello del 106, cioè del 104 lo ricevevo, capito? Li spostavo dal compensatore, lì giravo i trimmer e mi spostavo la radio su quella frequenza, perché allora era una radio molto, molto in voga qui a Sassari. Sì, c'era Radio Holiday, non so se c'è ancora, non credo. No, non c'è più Radio Holiday, non c'è più ormai Radio Venere, c'è e tanti altri, magari ci sono, anzi a Sassari non lo so se ce ne sono altri. Radio Venere sicuro, perché quella la seguo la domenica, quando ci sono i canti sassarisi, li seguo lì, non tutte le domeniche, perché anche lì mi sono stancato, però diciamo che già ci sono, Radio Venere. Però seguo anche Radio Nova, perché il sabato alle volte le canzoni di Sassarese sono su Radio Nova, la di Sorso, oppure su Radio del Golfo, di Porto Torres, canale frequenza 94, se ricordo bene, 94,5, una cosa del genere. Mi sa che a Sassari ve ne è solo una di radio, sì. Ma non ve ne più, non ce ne sono più, prima ce n'erano tanti, ce n'erano, a voglia se ce n'erano Radio Unide, poi si era trasferito, prima era via Grattacielo, era Grattacielo Sassari, no? In piazza Castello, cosa si chiama, là. Era lì, sì. Poi si erano trasferiti addirittura in via Grazia Deledda, sopra la banca, dove c'è la banca, non so se c'è ancora la banca della Sareda, era lì, mi ricordo una volta scendendo con la macchina, avevo la radio spento, avevo la radio della macchina spento, quando sono passato lì, tu non ci crederai, ho sentito la musica di Radio Uri che mi è entrata nella media frequenza dell'autoradio della macchina, con la radio spento, ho sentito dalle casse. Perché che bisogna chi è che li finanzia questi, boh? Non lo so, boh. Ma sempre quello, anche Roberto Quadrato una volta ce l'aveva la radio privata, lui ce l'ha avuta la radio privata. Non so se era solo sua o se era in società con qualche altro, ma mi ricordo che anche lui aveva una radio privata. Sì, sì, è così, è altro che, se lo senti chiedi, glielo mi ti confermerà. Sì, una giovata di tutta roba a valvole, mamma mia, tante cose, belle, comunque belle. Beh, allora ero praticamente giovane, dunque avevo tanta pazienza, avevo, e soprattutto tantissima passione. Oggi ho 80 anni, cosa vuoi fare? Ma passione, ma che cosa vuoi avere? Oh, oui. Per carità. Poi tra l'altro era più o meno aderente al mio primo lavoro, che io ho fatto 12 anni di elettricista, impianti elettrici, facevo riparazioni, eccetera. E quando rientravo poi in negozio la sera, che chiudevano i cantieri, io rientravo in negozio sino alle 8, lì c'era il radiotecnico, c'era un certo signor Brusa, che era usinese, di Usini quest'uomo, e mi è seduto a fianco a lui, mi faceva fare tanti lavori sulle radio, sui giradischi, sui registratori, sai, e lui faceva televisione, eccetera, eccetera. Anche sulla televisione qualcosa ho fatto, tipo ad esempio le televisioni vecchie, avevo cambiato un diodo, l'ho cambiato, l'ho messo al rovescio, l'ho messo e vedevo le stazioni francesi tranquillamente, una piccola regolatina da media frequenza e vedevo il canale francese, vedevo. Sì, allora era così, ma allora bella passione, io voglia. Radio Galene, buona, gli ho fatto una quindicina che gli ho regalati. Sapesse quanti panini imbottiti ho vinto anche, e come scommessa, no? La gente che veniva in negozio, sai, tutti, allora c'era tanta attività in quella zona, c'erano gli idraulici, c'erano i damieristi, c'erano i fabbri, i meccanici, e io con un pezzo di tavoletta così facevo la radio. Così, avanti posso una radio in presenza tua, mi ripeto che te lo posso vedere. Facevo i componenti, mettevo i componenti su una tavoletta così, e allora c'era la modulazione di frequenza, e gli facevo sentire, ma dammi, ti posso ascoltare due o tre stazioni, così era. Scommetti che ti faccio sentire, faccio una radio adesso, qua, su, scommetti, aiuto, e quello scommetti, aiuto, il panino per fare la colazione qua. Sai che non ha giovinto, ma allora, con una ventina di panini ha giovinto. Una bella passione, sì. Era proprio una passione, proprio passione, proprio veramente. Poi c'era un'officina lì in Vianura, sotto il portico di Vianura, un carrozziere, che c'erano 3-4 persone, e quelli a me li ho fatti. Avanti di voce, a uno, no? A uno mi devo, ma che come ti muovi tiranti? Avanti a uno, come è stato con un certo, aspetta, Pietro, mi sembra che si chiamasse quello. Io, bella, potete sentire la radio, fatto da me, innanzi a un pezzo di legna. E come stavo con lui, a fianco a me c'era il negozio di generi alimentari, panino per me, panino per lui. E qualche volta che c'era anche qualche altro amico, panino anche per l'amico. Grazie di sempre. No. Le prime radio erano così. Oggi non più, oggi non. Poi soprattutto nei primi anni che sono venuto qua a abitare, cioè che abitavo qua, perché io qua ci sono dal 1971, alle punte ci sono, non so cosa oggi, non so cosa lo prima, 1971, praticamente da quando mi sono sposato, dopo un paio di mesi che è la stanza lì, sono venuto qua ad abitare, nella zona delle punte. Dunque c'era anche il ripetitore San Giovanni, allora, che entrava, era una meraviglia la radio. Quando mancava la luce, è capitato tante volte che mancava la luce la domenica, io ascoltavo le partite, no? E non potevo seguire. C'era uno di fronte a me che abitava, uno di fronte, che tra l'altro era anche il padrone di casa dove abitavo io, gli davo la voce, signor Paolo, l'Inter sta facendo questo risultato, oppure Milan, così, come fa a sapere se non c'è luce? E io con la mano le cuffie. Ah no. Belle cose, belle cose. Poi non parliamo di microfoni, microfoni amplificati e li ho fatti nella scatoletta d'alluminio, li ho fatti in legno. Ah, cos'è che non ha giocato? Ui, capita. Tante volte venivano anche amici, tipo gente come Angelo Mello, che ormai è morto già da 3-4 anni fa, mi sembra, era un vice commissario della polizia che poi se n'è andato in continente ed era Alessandria, era diventato vice commissario della polizia. Shadow 2 si chiamava, infatti il baratino io l'ho conosciuto proprio per lui, perché è venuto un ragazzino, lui era allora un ragazzino di 14 anni, una cosa così, con questa borsa sulla colla, cos'è che hai? Una radio, dice baratino, fammelo vedere, io non lo conoscevo allora, e ho conosciuto il baratino proprio perché me l'avrebbe fatto conoscere questo Angelo Mello, si chiamava di cognome. E dunque da allora mi sono appassionato e me l'ho comprato e poi è andato avanti ormai dal 1972, che ce l'ho, sì, che ti puoi immaginare. Cos'hai detto? Lui? Non ho capito. Guarda, ti vuole la foto se ce l'avevi quella. Aspetta, mi sono dimenticato di attaccarlo a proposito. Deve portarlo a caricare. Perché c'è la batteria scarica? Aspetta che guarda. Mi sa che ce l'ho quella, aspetta che guardo, perché ne ho un bel di quella, ma... Ehi, radio elettronica, ehi, la devo fare dopo, ce la sto dicendo, è una sessione, 2012, 4,50 euro, e allora, se io lo dico bravo, anche di più a buon prezzo, perché ce la sto dicendo, dico bravo, da quando avevo io 14-15 anni, compravo questi giornali così, se vuoi immaginare, se pensi, nel 1956, 55, 56, io già compravo questi giornali, per dire, no, è voglia, me li dava babbo i soldi per comprare il giornale. Ma tu, anche se compri i giornalini, dice, che vengono i ragazzi, ti leggi queste cose, cosa ne sai? Queste mi piacciono, perché io già da allora ero in un negozio di elettricità, che ho cominciato all'età di 10 anni e mezzo, no? Che poi lavoravo e studiavo, andavo a scuola e poi quando uscivo da scuola andavo in negozio, che era il negozio che c'era di fronte al gruppo vecchio del corso, di corso Vittorio Emanuele, quello giù, che di fronte adesso c'è la farmacia. E noi eravamo lì proprio di fronte al corso, al negozio, era un negozio di elettricità. E dunque io ho iniziato così per caso, avevo dei anni e mezzo quando ho cominciato. Prima ce ne giovane, se no io non ne ho comprato di pesca pure, uia, vabbè, non c'era internet. La Fiorentina, perché la ditta dove lavoravo si chiamava La Fiorentina, e c'era il signor Ferro, che era il fratello della, del principale, del, del cognato del principale, il fratello della moglie del principale, e mi insegna, a Bandiera non avevamo piazzato a lui, l'ha costruita questo buccio, perché faceva lui le insegne a Neon, allora poi noi l'abbiamo piazzata, capite? Sì, lì al Lupin vecchio, di, cioè al primo Lupin del, del corso Vittorio Emanuele, che forse tu non hai nemmeno conosciuto lì. Io l'ho conosciuto su, l'ho conosciuto. No, no, tu non l'hai conosciuto, no, infatti no, non è possibile. Io, il primo Lupin era giù, non so, scendendo, ipotesi che ci sono in corso Vittorio Emanuele, lì che c'era il comune, c'è stato anche il comune, c'è stato lì, non so se ci sia ancora, ma non credo. E adesso c'è la farmacia Pisano, in quel negozio lì del Lupin, c'era nella parte di corso Vittorio Emanuele, c'è la farmacia Pisano, lo sai dove c'è la farmacia? Ma il comune, ma il comune Lupin lì non l'ho conosciuto io. Di che anni stai parlando? Il centro gioco di Zende, mi sembra che l'avevano costruito nelle 52, boh, una cosa del genere, l'avevano costruito, però io sono andato, mi ricordo nel 1956 quando avevo fatto quella bella passata di neve a Sassari che era alta 1,20 m, in corso di Vittorio Emanuele, proprio di fronte al negozio c'era la porta dei Lupin, questa donna che stava entrando dentro, Lupin scivola, ragazzi, se si è rotto il femore, poveretta. Io allora avevo 14 anni, avevo, ero un ragazzino da niente, cosa si trovo presente, ero un ragazzino proprio. Ho iniziato a 10 anni e mezzo per caso, così, sono passato un giorno con mia madre e siccome mia madre conosceva questa donna che era la proprietaria di questo negozio, e gli ha detto, allora il ragazzo nel negozio, a me che era 10 anni e mezzo, mi cosa le do? Ha fatto, no, mangiato, devo mandare, magari lo posso mandare qui da Capita, che era vicino, no? C'è Capita quello del corso, Brasile, me. Appena più giù eravamo noi. E non è che dovevo, così in negozio magari può prendere lo straccetto, spoverare qualche scaffale, così e così, e così mi rovina tutti i lampadari e tutte le abbagliù che ci sono, che ne ributta giù. E mi fa, basta, ma ci vuoi venire? Adesso devo andare a scuola. Ehi, vabbè, dopo la scuola viene, no? Questa signora mi ha detto, no, dopo la scuola non c'è problema. E così avevo fatto, ho iniziato lì, e mai l'avevo salvato, mi sono appassionato all'elettricità, all'elettronica, non me ne è più uscita quella passione. Scusa, canale 10. Avanti, canale 10. Beh, per salutare un amico, se posso, eh. Avanti, avanti, chi sei? Non ti ho riconosciuto. Chi sono? Il terribile che fa molto, molto bacano. Non ti ho riconosciuto, non mi arrivi molto bene. Se parli un pochino più lentamente, un pochino più forte, magari. Sono in compagnia di un altro amico che poi ti mando avanti. Ciao Giulio, sono Bruno, ciao. Ah, ciao Bruno, caspita. Sempre basso tu sei, in frequenza. Ciao Bruno, Bruno già mi ha conosciuto. Ti ricordi Bruno, tu, mi sembra che venivi anche tu delle volte a casa negli anni 70, 72, 73, 74 più o meno, quando facevo i microfoni insieme a te, a Nando Electronic, Tuca Tuca, te lo ricordi Bruno? Tuca Tuca, sì, Nando. E poi ci siamo frequentati molto i tempi di Angelo Mello, Angelo, il ragazzo della moto, carabinieri, Angelo Mello, poi anche Gianni Merlo, in quel periodo di comunque dire, anni 70, perché io ero mio padre minorenne e mio padre aveva fatto la concessione a nome suo. Negli anni 70 allora, eravamo quegli anni lì, me lo ricordo, tu in frequenza c'eri anche prima di me, infatti tu già parlavi con Nando, parlavi con Costanzo, Lazzero, Antonello, fratello, che eravate vicino di casa, abitavate vicino uno di fronte all'altro, e infatti io il primo CB che ho conosciuto era Antonello, il fratello di Costanzo, Antonello Pattona, per cui appunto stiamo parlando anche di Angelo Mello, che ormai è morto già da alcuni anni, è morto, abitava ad Alessandria perché era vice commissario della polizia italiana, purtroppo si era ammalato ed era morto. Avanti Blu. Ok, sì, abitava a via Giovanni Pasqua, vicino a Gianni Merlo abitava, Gianni Merlo abitava a Sacro Cuore. Sì, ma io ho conosciuto le ragazzine loro. Beh, io sono arrivato quegli anni perché io avevo conosciuto la frequenza di Torre Laica, perché è mio cognato, alla Verde, per cui lui già allora praticava. Figurati che io ero minorenne, mio padre aveva fatto la concessione a nome sua, proprio perché io, allora, sai, quando sono venuto io da te la prima volta, mi fai, non vorrei sbagliarmi, avevo un Tokai 506S a 6 canali, portatile, stavo camminando e sono arrivato sino alla tua bottega. Ce l'ho avuto anch'io 6 canali, proprio, infatti è proprio il primo baracchino che ho avuto io, è proprio un Tokai 6 canali, che l'avevo preso in permuta. Un ragazzo che gli avevo fatto 2 casse per mettere gli altoparlanti, perché andavano a ballare in cantina, andavano a ballare questi ragazzi e non avevano soldi, e ho detto, però soldi non ne ho, cioè, ti do questo, dice, ti do questo baracchino e fammelo vedere, vabbè dai, vieni dopo domani e avrai le casse, e mi ha lasciato il baracchino 6 canali, e poi subito mi avevo comprato l'Innoiti, subito dopo pochi giorni mi avevo comprato l'Innoiti da Costantino Fara. Avanti Luca per Bruno Ragano. Ciao Bruno, buonasera. Sono al telefono, oh, Giulio. Mi prendi Bruno? Ok, ciao, ben sentito. Vabbè, comunque gli anni passano, ci stiamo invecchiando giù, ma non diciamo a nessuno. Sì, allora io avevo comprato poi da stazione fissa un baracchino a 6 canali, pace 100 ASA, ASA 100 ASA. Poi avevo trovato il Tokai 508, 5008, quello 23 canali, e poi 5024. Insomma, me li ho passati tutti i Tokai, là. Sì, già me lo ricordo, uscivo soprattutto col 5024, che era del Tokai, ed era molto buono quella. E poi tra l'altro ce l'ho io anche, ce l'ho io con la radio lì ancora, è funzionante tra l'altro. Sì, e poi no, io quello che avevo io, non mi ricordo, era un Tokai 6 canali, quadrato naturalmente, come tutti gli baracchini di allora, no? E me l'avevo corso una volta con Costanzo Ora Zero, perché lui si aveva comprato non mi ricordo, quella radio valvolare, mi sembra che fosse, bello, molto bello. E avevamo fatto una gara, io con questo baracchinetto, anzi loro stessi sono stati, aspetta che lo confrontiamo col mio, dice, lui aveva un gran bel apparecchio, era molto bello, e io stavo appena iniziando. E chi c'era? C'era quello di Porto Torres, c'era, credo che sia morto lui, non mi ricordo come si chiama, c'era anche la moglie che modulava, forse tu mi puoi fare memoria di quella donna, come si chiamava. Mi aveva dato a me un Santiago più alto del baracchino che avevano loro, che era un valvolare, non mi ricordo però che marca era, bello, un bel apparato veramente, molto molto bello era, te lo ricordi tu cosa era? Ce l'avevo anche io avevo il Constant 25B e lui Costanzo aveva comprato il Constant 35, che ce l'ha tuttora perché ce l'ha Antonello in garage, io abito di fronte a Antonello, e infatti l'altro giorno mi ha visto che stava ormeggiando la macchina e ha detto babà, non ti sei staccato ancora. Allora era un Constant valvolare, era un 23 canali che però si modificava e diventava a 46 canali un Constant, e si poteva mettere anche un bel microfono, io avevo lo Shure sotto, lo Shure, vabbè, quello era, l'avevo comprato assieme al baracchino. E poi questo Constant 25B, cioè la valvolare, non mi ricordo a chi l'avevo dato, comunque forse è un radioamatore, sto parlando degli anni, forse fine 79, 80, Sì, il Constant, adesso me l'hai ricordato, la marca non me la ricordavo, il Constant 35 aveva lui, sì è vero, con quello bello Smithere, tutto colorato, molto bello. Io il Constant, io ce l'ho avuto, il 23, Constant 23 ho avuto io, anche quello funzionava molto bene, e poi poi l'avevo regalato, però l'avevo regalato ma non funzionava più, non mi ero mai interessato di ripararlo, ma avevo una fesseria e non so se poi l'hanno aggiustato o a chi l'avevo dato, non lo so, comunque ce l'ho avuto, il costo del 23 l'ho avuto io, non 25, 23B mi sembra stesso, capito? Che era simile a quello del 25, più o meno, perlomeno il disegno era quello, poi non lo so se però quello che aveva Costanzo mi era sempre piaciuto moltissimo. C'era anche Costanzo il baracchino, c'era Costanzo quello di coso, del suocero Buonanima, che non mi ricordo come si chiamasse in frequenza, Ancora se forse si chiamava, forse così adesso, forse mi è venuto in mente Ancora, e anche l'MB, cioè è anche il microfono, il Tanner più 3, ce l'ha quello, ma è un ricordo del suocero e non lo dà nessuno, e non lo dà, infatti gliel'avevo chiesto se me lo dava, no, dice un ricordo di mio suocero, per cui, e allora mettere, attaccalo che parliamo, no, dice assolutamente no, capito? Forse ce ne sento un po' meglio perché sono stato a comprare una fesseria che serve per casa. Sì, allora io avevo 25B, loro avevano comprato il 35, però il 25B prendeva meno splatter del vecchio, era ancora meglio del 35. E lo mettevi in stand-by, lo facevi scaldare e poi giravi l'altra manopola e potevi parlare. Non, a quei tempi era buono perché c'era molta gente che modulava a frequenza e faceva casino, però non prendevi splatter, capito? Chi aveva quello lì era già, insomma, un inizio un po' particolare. Sì, infatti chi aveva quello era già un po' avvantaggiato a riguardo degli splatter, perché allora splatter se ne sentivano, perché c'erano troppe persone, c'erano assassini. Tu sollevavi la testa, non vedevi altro che antenne sul tetto del baracchino. Quante lotte, quante belle discussioni, anche fino alle 4 o alle 5 del mattino, e qualcuno anche faceva direttamente dalla cena fino al posto di lavoro di domani mattina, perché non aveva chiuso mai, tipo ad esempio cosa addirittura si svegliava col baracchino acceso, quando capitava in via Gazzarella, che non lavorava mai, vabbè, chiamare Capitone, mi sembra che si chiami, sì, Tone, chissà, non lavorava mai, quando si programmava il baracchino, la mattina si svegliava con l'accensione automatica del suo baracchino, si svegliava, te ricordi Tone, è sciumpiato, io lo chiamo sciumpiato, lo chiamo Chopin. Ci ho visto anche da poco, siamo visti, già lo vedo sempre, e adesso abita a Sacro Cuore, abita, e gli ho, infatti l'altro giorno gli ho chiesto, siccome mia sorella un paio d'anni fa, prima di morire, mi aveva regalato una radio, gli ho detto, quando è morto mio cognato, quando è morto il dottore, ma tante radio, tante, gli ho detto, lasciami qualche ricordino per il dottore, lasciamo una radietta, ma questi con la TV c'erano tante, ma c'erano baracchini, c'erano di tutto da Radio Mantua. Sono andato una radietta, non mi ha dato questa radietta, io l'ho presa, l'ho portata a casa, e invece deve essere, che non riesco a capire come funziona, poi l'ho fatta funzionare, è un casino, che deve essere qualche ricevitore magari data frequenza, perché c'è un sacco di bande, e allora da poco ho trovato altro di Chopin, e gli ho detto, qualche giorno ti porto questa radietta che mi dici che cavolo è, se è un ricevitore, qualche cosa, è piccolino ma è molto bello. Sì. E ogni tanto anch'io già lo vedo lì via Pascoli, in quella zona lui frequenta abbastanza, diciamo quasi giornalmente, dai, magari va a farsi quattro passi, passa in quella zona, vabbè, anche se non è che siamo in buona armonia fra me e lui, perché veniva da me e voleva i lavori, infatti grazie, li voleva, no? Perché lui poi faceva la muletta e se ne vendeva tipo bancarella, cioè, io dovevo tagliare le tavole, tavoloni addirittura, mi portavo a tagliare, a piallare, e poi è tutto grazie, e poi a un certo momento ho cominciato anche a avere delle pretese, tu pensa che delle volte alla mattina presto arrivava, prima lui che io arrivavo alle 8, 10, 8, 10, 8, 4 massimo ero già in bottega, no? Beh, tante volte c'era già lui aspettandomi, ma dimmi tu, se non è che tu ti diceva quant'è che te devo dare, no, tutto grazie, poi ho cominciato a vedere 10 minuti. Ma tu sei 10 minuti, sei, no, che tu ne arrivi se non prendermi le cazzo, altro che 10 minuti. Alla fine l'ho mandato via, l'ho mandato e non glielo ho fatto più. Perché cos'è? Dovevo lavorare grazie per lui, non lo so io. Che lui faccia tanto di lavoretti, poi la brava casa sua, che stava marchino, cose, ho trovato già di Pasqua, un giorno che passeggiavo, c'è un cagnolino, e tu mi sono fermato, era ecco. Io sono sicuro che c'è molta gente che frequenta, di lì che ascolta, ma un bene, ma non entra. Non ho avuto la prontezza quando è morto Ottore a prendermi quelle apparecchiature che c'erano lì, poi sai, gli approfittatori, quelli che dicevano di essere amici, la sorella non capiva niente, mio nipote ancora di meno, andare, ha debuttato un'antenna, tre direttive, tre apparecchiature, lo sai che hanno un sacco di apparecchiature insomma. E poi un giorno chiesto, c'è la tua roba lì, no, abbiamo dato tutto, non facevamo niente, sì. Stava la cella dove era, comunque ormai la cosa è andata così, ma devo andare questi giorni a frugare perché mi servono dei piedi di quelli vecchi, quelli batteriste, sono sicuro che lui ne ha tanti, perché avevamo messo tutte le tue scatole, che hanno un cartone conservato, e per cui la minuteria, questa cosa lì sicuramente non le hanno prese, non credo a me. Devo andare un giorno alla tua radio le vedere un po' se c'è qualcosa che mi serve, magari qualche droga, poi ci sarà qualche alimentatore, quelli un po' fuori che usava lui, quelli grossi. E vabbè, vabbè, quest'altro che apparecchiatura, che ben buona, però c'è più nessuno, sto sottentrando la sera a salutare qualcuno, però un po', se lo sentivate non sarei neanche entrato. Ok, lo so, ormai la gente si è stancata e non sta più frequentando la 27, pazienza, perché non possiamo gli farci niente, se la gente non ne ha voglia, pazienza. Sì, mi ricordo, Tore veniva sempre da me, passava quasi tutti i giorni, anche perché passava per andare a casa, una volta che usciva dal lavoro, passava lì davanti a bottega per andare a casa sua, no? E un giorno mi è venuto, mi dice, mi è arrivato un paio d'ore fa, mi è arrivata questa radio, e cos'era? Il 140 era, il chiamo del 140, nuovo, e l'aveva comprato, dice, gli ho già fatto la modifica, gli ho aperto, non so cosa, non mi ricordo cos'è che gli aveva aperto, e come è fatto? E sono passato, dice, da cosa sono passato? Da quello che c'era a San Francesco, sono passato a Beta Verde, in un attimo mi ha fatto lui, Beta Verde era bravo, e come cosa, direttore della ricetrasmissione, e mi ha fatto subito la modifica, adesso vado a casa e lo provo, e vai provo, la modifica da te, me l'ha fatto vedere, ho andato, dopo un po' di tempo me l'avevo comprato anch'io, 2 milioni e 21 mila mi sembra che era, se ricordo bene il prezzo, una cosa del genere. Da poi dopo un po' di tempo avevo sempre uno appresso di Porto Torres, perlomeno lui mi diceva che era di Porto Torres, e gliel'avevo dato un milione, ma dopo qualche anno, dopo un paio d'anni, una cosa così, gliel'avevo dato un milione e mezzo, mi sembra che gliel'avevo venduto, una cosa, ma era nuovo, impeccabile, poi tra l'altro io non lo usavo molto, anche perché allora in quel periodo non avevo molte possibilità per antenne eccetera, per cui era proprio immacolato. L'ho avuto anch'io il chemo, allora il chemo di io, siccome funzionava un po' male, non mi ricordo cosa aveva, l'avevo portato da Tore, perché lui si divertiva a fare piccole riparazioni e cose così. E ho portato sul chemo, gliel'avevo lasciato lì dopo tanto tempo, l'avevo mai ritirato, chissà che se ne ha fatto, poi magari aveva dato a qualcuno oppure. Ormai era il periodo che ero uscito di frequenza, non me ne fregato niente, l'avevo lasciato a lui. Avevo lasciato anche poi degli apparecchi VHF in banda marina, perché allora avevo la barca, facevo barca, avevo queste apparecchiature qua, e li avevo lasciati tutto a lui. avuto bisogno anche io di lui qualche volta, via San Francesco. Adesso invece devo aggiuntare una radio, non riesco a sentirlo, una radio che mi hanno regalato nei primi anni 70, non ricordo. Non conosco un radio tecnico che aggiusti queste radio, non so dove portarla, voglio farla controllare. Se l'ho lasciato che funzionava, adesso non funziona più. Guarda, la persona che ti può aiutare qui vicino a Sassari, non a Sassari, no, vicino a Sassari è Albino a Borole, ti fa una scappatina, ti fa e sono sicuro che lui te lo ripara, perché già è bravino, dai, non c'è problema, solo che ti devi fare la passeggiata a Borole, prima portaglielo e poi per riprenderlo. Allora lui te lo fa tranquillamente, per cui non c'è problema. Se un domani decidi di andarci, mi telefono e ti do anche il numero del telefono, per cui non c'è problema. Capito? Ma Sassari ormai non c'è più Panzer, non c'è più M2, non ne fa più nessuno ormai di queste cose qua. M2, Mario, io siamo frequentati poco con Mario. Mario, siamo grandi amici, non so che ce ne ha fatto, però almeno 20 anni che non so più niente. Lui, quando è morto Mario Bravo Charlie, ci aveva preso l'apparecchiatura che aveva Mario per l'impianto stereo, con quella campionata, perché in quel periodo uscivano insieme. Allora, io ho visto che devo comunque portare a sistemare anche un baracchino microfono, perché mi hanno venduto un baracchino, poi mi hanno dato un microfono per l'amplificato, hanno cercato di aggiustarlo, mi pare non sono riusciti, fischi e fiaschi. Mi pare che faccio un saltino, qualche giorno ci mettiamo d'accordo, mi dai magari il numero telefono, prima lo telefono, dico guarda che devo stare il giorno per non andare a volo. Eventualmente ci sentiamo. Faccio un saltino, gli porto tutte queste cose, tutto un viaggio. Non lo sapevo che c'era questo amore perché si chiamava le apparecchiature. Sì, lui fa, non c'è problema. Sì, poi anche da poco, da qualche mese fa, l'aveva portato un baracchino, che qui non era nessuno, era riuscito ad aggiustarlo, gliel'ha portato un Carlo, gliel'ha portato e gliel'hanno aggiustato, no? Gliel'ha aggiustato tranquillamente e gliel'ha aggiustato anche molto bene il Saturnecco, dai, quello che io, tu già lo conosci, quel baracchino lì, e gliel'ha portato e gliel'ha aggiustato in pochi giorni, gliel'ha aggiustato nonostante che ha dovuto richiedere il finale da Continente, da Furi, per cui no, non c'è problema. No, Albino già lo fa, Albino già te le fa tranquillo. La Sassari purtroppo non c'è nessuno, c'è la Panzer, ma purtroppo Panzer è morto, ce n'era un altro lì nell'altro angolo opposto, dove c'era Costantino Fara, ti ricorderai, nell'angolo opposto a quello di Costantino Fara c'era lì un altro radiotecnico, che faceva sempre questi lavori qua. Io una volta ero andato da lui e me l'aveva riparato un baracchino che avevo, era un vecchio baracchino e me l'aveva riparato, adesso non mi ricordo, forse lui entrava in frequenza col nome di Nessuno, se ricordo bene, ma non vorrei sbagliarmi perché non sono sicuro di quel nominativo lì. O blu, c'era anche Maria M2. Sì, Maria M2, l'abbiamo parlato poco fa di Maria M2, sì. Bruno, di Nessuno, tu ti ricordi qualcosa? Guarda che era un radiotecnico nell'angolo opposto a quello di Costantino Fara, di via Principessa Maria. Ma io, guarda,